il potenziamento della raccolta differenziata non basta. Noi puntiamo a analizzare e a sottolineare quanto sia importante il fenomeno del recupero dei materiali che sta a valle della raccolta differenziata. Talvolta la raccolta differenziata non è un dato significativo, perché magari alte percentuali di raccolta non sempre corrispondono ad alte percentuali di recupero, il che potrebbe sembrare paradossale, ma purtroppo è così. Purtroppo è così perché non sempre le cose vanno a finire là dove vengono recuperate, no? Il punto è che, adesso non per incensare l'area del settore delle imprese private nel mondo del recupero, ma il mondo del recupero è sostanzialmente affidato agli operatori privati, che hanno fatto, facendo crescere questo comparto, hanno fatto di questa attività pionieristica qualche anno fa un business ormai consolidato e che rappresenta un elemento, diciamo, profittevole in termini di recupero dei materiali, risparmi di energia e di anche valorizzazione del sistema impiantistico destinato allo smaltimento rifiuti, nel senso che potenziando l'attività di recupero si potrebbe a regime avere un sistema di smaltimento meno complesso, più adatto a un paese che fa fatica ad accettare sul suo territorio, dal punto di vista psicologico, l'esistenza di impianti di smaltimento finale attraverso i vari sistemi, trattamento rifiuti, incenerimento rifiuti e interramento degli stessi in discarica. Noi abbiamo mediamente 35 milioni di tonnellate di prodotti materiali recuperati dalle nostre attività gestite dalle imprese pubbliche e private, ma come le dicevo il mercato del recupero è principalmente un mercato privato. Senta, a questo proposito, proprio perché si tratta soprattutto di imprese private assai poche pubbliche, perché il pubblico non ha mai scelto di entrare in questo mercato? Perché ovviamente l'attenzione dell'imprenditore privato alla cura con cui il recupero va seguito è naturalmente una cura che è una produttività che è caratteristica del privato. Però la collaborazione in pratica vi si impone, perché sono i comuni poi che fanno materialmente la raccolta o che mettono i cassonetti, e quindi che tipo di problemi avete nella collaborazione con il pubblico? Guardi, questo è un grande tema, lei ha messo il dito nella piaga, come si suol dire. Sì, l'interazione e la complementarietà non solo è utile, ma talvolta è necessaria. E in questo senso non ha giovato la norma che il legislatore del passato governo aveva proposto, cioè la possibilità da parte dei comuni di assimilare i rifiuti speciali non pericolosi al circuito dei rifiuti urbani. Tenga conto che nell'ambito dei materiali recuperati una grandissima parte viene dagli imballaggi e dal recupero degli scarti di produzione delle lavorazioni industriali che non sono pericolosi e che in teoria quando i comuni hanno la libertà di farlo o la possibilità di farlo possono essere assimilati al settore degli urbani, quindi in qualche modo ritirati dalle industrie dagli esercizi commerciali e accorpati al settore del servizio urbano. Questo naturalmente per alcuni comuni e per alcune imprese pubbliche è una ghiotta opportunità, perché aumentano di fatto il fatturato e i flussi di rifiuti che gestiscono, dall'altra però sottraggono il materiale al recupero, perché la destinazione finale del circuito dei rifiuti urbani, di raccolta dei rifiuti urbani, è genericamente fatto dal pubblico, lo smaltimento attraverso interramento, cioè discariche o termovalorizzazione, quindi sono tutti prodotti che poi vengono sottratti al mercato del recupero. Quindi anche se noi siamo molto complementari col pubblico, talvolta siamo in posizioni antitetiche, perché loro magari hanno un vantaggio finanziario, mi passi il termine, di assimilare queste lavorazioni al circuito dei rifiuti, della raccolta dei rifiuti urbani, e noi invece abbiamo l'interesse opposto, quelli di parcellizzare queste attività di raccolta per valorizzare al meglio i prodotti recuperati da inserire poi nel mercato delle materie seconde. Senta, anche nella migliore delle ipotesi di collaborazione con il pubblico, sono molto diffusi in Italia quei cassonetti di raccolta multimateriale. Per voi sono una dannazione o vanno bene? Guardi, su questo c'è una vecchia, cioè ci sono le due famose linee di pensiero. Il problema della raccolta porta a porta è che costa molto, costa in genere due volte in più della raccolta monomateriale, e quindi in questo le amministrazioni locali preferiscono magari puntare a una raccolta differenziata fatta di grandi aggregazioni, quindi un grande cassonetto che contenga carta, vetro, lattina, eccetera, e poi selezionarlo a valle. Purtroppo nel tempo la selezione a valle ha dato dei risultati incerti, perché talvolta i mezzi che raccolgono la multimateriale, quando comprimono il vetro, creano un polverino di vetro che rende di fatto la plastica o la carta non più riciclabile, perché ha una componente di vetro triturata che lo rende, diciamo, di pessima qualità. Le amministrazioni un po' di sforzo devono farle nel differenziare il numero dei cassonetti destinati alla raccolta, e quindi qualche costo in più devono subirlo, ma in genere questi costi in più, che sembrano dei costi immediati, poi vengono ripagati con minori costi di smaltimento, perché più sono i prodotti recuperati, meno sono i rifiuti che vanno avviati allo smaltimento finale.